Pacifico per nostra gran fortuna possiede un flauto magico che a tutti fa incantar. Se senti quella musica ti fa passar la luna e i tuoi bollenti spiriti di colpo fa calmar. E davanti al sole e al mar ti viene voglia di cantar. Vai, vai, papà, è magnifico. Dall'Alpi alle piramidi, dal Manzanarre al Reno, le coppie che bisticciano lo vengono a cercar. Lui mette in fila i coniugi sotto il bel ciel sereno, le mani su stringetevi, comincia a comandar. Io mi proverò a suonare, voi provatevi a cantare. Vai, vai, papà, papà, tu sei magnifico, papà, pacifico, papà, pacifico, papà, papà, tu sei magnifico. Tre bei fratelli discoli giocando a far la guerra, tre simboli agitavano ognuno d'un color. Siccome si picchiavano da rimaner per terra, il buon papà pacifico, ragazzi, disse allora: i colori sian tre, però insieme tutti e tre. Vai, vai, papà, papà, tu sei magnifico, papà, pacifico, papà, pacifico, papà, papà, tu sei magnifico, papà, pacifico, magnifico, papà. Cosa importa se siamo ricchi o poveri? Tu sei magnifico, papà, pacifico. Parapapapà, tu sei magnifico, papà pacifico, magnifico papà.